Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Buon martedì, cari ascoltatori di Blu Radio Veneto, e bentornati a Il bene di tutti, parliamone, rubrica a cura dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Sono Andrea Canton e anche questa settimana affronteremo insieme gli argomenti che passano in velocità all'interno dei telegiornali, dandoci però, a differenza dei frettolosi notiziari televisivi, il giusto tempo per commentare questioni così complesse alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Può la sorte di un paese dipendere da una cifra? Le nostre vite possono essere decise da tre numeretti in croce? In questi mesi, l'avanzare dell'indice dello spread ha imposto alla politica nostrana un brusco cambio di agenda. Addirittura ha portato all'insediamento di un nuovo governo. Perché la politica si è piegata alla finanza? Il presidente del Consiglio Mario Monti, in una recente intervista, ha individuato le radici dei disastri attuali nelle scelte degli anni Ottanta, quando le politiche neoliberiste di Bush padre e di Margaret Thatcher hanno portato il mondo della finanza a spadroneggiare senza regole. Che ci dice la Chiesa? Viene in nostro scorso la Caritas in Veritate, l'ultima enciclica in campo sociale scritta da Benedetto XVI. Sarebbe dovuto andare in stampa nel 2007, a 40 anni esatti dalla Populorum Progressio di cui riprendi i temi. Abbiamo infatti appurato che moltissime encicliche o documenti sociali vengono prodotte negli anniversari di altre opere a cui sono ispirate. Eppure la crisi finanziaria, che stava appena vedendo la luce, costrinse il pontefice a rinviarne la pubblicazione, per potervi inserire e trattarlo degnamente anche il tema della finanza. E proprio di finanza parleremo con Mario Crosta, direttore di Banca Etica. Ma prima ascoltiamo uno stralcio dell'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Dall'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Bisogna poi che la finanza, in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modalità di funzionamento, dopo il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l'economia reale, ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior produzione di ricchezza e allo sviluppo. Tutta l'economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti, essere utilizzati in modo etico, così da creare le condizioni adeguate per lo sviluppo dell'uomo e dei popoli. È certamente utile e in talune circostanze indispensabile dar vita a iniziative finanziarie nelle quali la dimensione umanitaria sia dominante. Ciò però non deve far dimenticare che l'intero sistema finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo. Soprattutto bisogna che l'intento di fare del bene non venga contrapposto a quello dell'effettiva capacità di produrre dei beni. Gli operatori della finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della loro attività per non abusare di quegli strumenti sofisticati che possono servire per tradire i risparmiatori. Retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai essere disgiunti. Se l'amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano in maniera significativa molte esperienze nel campo della cooperazione di credito. Tanto una regolamentazione del settore tale da garantire i soggetti più deboli e impedire scandalose speculazioni, quanto la sperimentazione di nuove forme di finanza destinate a favorire progetti di sviluppo, sono esperienze positive che vanno approfondite e incoraggiate, richiamando la stessa responsabilità del risparmiatore. Bentornati cari ascoltatori, siamo con Mario Crosta, direttore di Banca Etica. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Cosa ci dicono le parole del Papa e cosa dicono soprattutto queste parole del Papa a una persona che come lei il mondo della finanza lo vive ogni giorno? Beh, dicono qualcosa di grande attualità, perché sicuramente le motivazioni della crisi derivano da uno scollamento che c'è stato tra la finanza e l'economia reale. Da almeno 20 anni assistiamo ad un fenomeno che viene chiamato finanziarizzazione dell'economia. La finanza, l'attività delle banche non è più solo a sostegno dello sviluppo economico, è a sostegno di logiche speculative che sono incontrollate e che lasciate fuori controllo, come è successo in questi anni, hanno portato alla crisi che purtroppo ci troviamo ad affrontare in questi giorni. Infatti, a parte il caso della Lehman Brothers, molto spesso grossi crack finanziari sono stati provocati da comportamenti permessi dalla legge o almeno nel limite della legge. Ma una cosa che è legale è necessariamente accettabile moralmente? Parlo ad esempio della speculazione finanziaria. Sì, ci sono aspetti legali dove però, come viene dimostrato da casi quali Parmalat, il rispetto della legge, il rispetto della norma quando si tratta di una norma che non è più collegata con la realtà ha poco senso. Il caso citato di Lehman Brothers, ma Parmalat stessa, erano casi in cui i risparmiatori sono stati indotti ad acquistare, a mettere parte del proprio risparmio, ad acquistare dei titoli a fronte di situazioni che erano ampiamente pregiudicate. Questo peraltro fatto in funzione di valutazioni fatte da agenzie di rating, le stesse agenzie di rating che oggi mettono in discussione la credibilità di governi nazionali. Allora, rispetto alla domanda, nello specifico c'è qualcosa che deve andare oltre al rispetto formale della norma, o detto in modo diverso, bisogna che queste norme vengano riviste, vengano cambiate e non si limitino solo ad un contenuto strettamente formale, ma acquisiscano senso in base ai valori di una finanza diversa, di un'economia diversa che metta al centro la solidarietà, la giustizia, l'equa distribuzione dei redditi, il valore della persona e delle comunità locali. Ci fermiamo un qualche istante e ritorniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Eccoci di nuovo qui per la 7ª puntata del bene di tutti, parliamone. Siamo con Mario Crosta, direttore di Banca Etica. Direttore, il Presidente del Consiglio Mario Monti nelle ultime settimane ha ripetuto più spesso che la crisi che stiamo vivendo adesso trova le sue radici nelle politiche neoliberiste degli anni 80 di Bush e della Thatcher. È mancata effettivamente la vigilanza degli stati e anche della comunità internazionale. Perché è mancata questa vigilanza? Il grande assente la cui assenza ha pesato ed è stata determinante nello sviluppo della crisi, sicuramente il sistema politico. Assistiamo ad una mancanza, ad una carenza di leadership, almeno a livello europeo. L'Europa, che è diventata un centro fondamentale, importante per le decisioni, è sostanzialmente stata svuotata dalla politica, riempita da tecnocrati e da burocrati, e questo ha portato per l'appunto a non considerare come si poteva intervenire con misure a favore delle persone per affrontare la crisi. Cito un solo dato: si è speso molto per salvare le banche, si sono spese molte risorse pubbliche per salvare le banche, se ne sono spese molte meno per salvare le famiglie che ad esempio non ce la facevano più, non ce la fanno più a pagare il mutuo fatto per l'acquisto della casa. Questo è avvenuto, questo sta avvenendo perché ci sono dei poteri forti e sicuramente il sistema finanziario è uno di questi poteri forti che ha potuto agire lasciato libero dalla politica, con una politica che non ha esercitato il ruolo di indirizzo e il ruolo di controllo che dovrebbe esercitare. La soluzione della crisi deve sicuramente contenere ricette e misure economiche, ma soprattutto deve partire da un riappropriamento da parte della politica del potere di decidere, del potere di indirizzare la vita delle persone. E quali sono le prime mosse che il mondo della politica a livello internazionale può compiere per riappropriarsi del mondo della finanza, utilizzandolo come uno strumento per il bene comune e non esserne soggiogati? La prima cosa è sicuramente bloccare la speculazione. Cito l'esempio dei derivati. I derivati sono uno degli elementi che ha portato al fallimento di questo sistema, la grossa crisi finanziaria. È un mercato che deve essere assolutamente regolamentato. Un'altra misura da attuare, a nostro avviso, fin da subito è la definizione di una tassa sulle transazioni finanziarie, cosa che fortunatamente a nostro avviso si è cominciato a discutere, è un qualcosa che deve essere attuata fin da subito. Altro elemento, far sì che le banche, l'attività delle banche, siano premiate le banche che svolgono un'attività, l'attività tipica delle banche, che è la concessione del credito. Per cui una tassazione differenziata e anche un trattamento rispetto alle norme, rispetto alle operatività che si è differenziato tra chi fa finanza a favore dello sviluppo e chi fa finanza solo a titolo speculativo. Un altro elemento sicuramente da rivedere è la normativa sulla regolamentazione bancaria a livello internazionale, la normativa che è chiamata di Basilea 3, per facilitare l'attività delle banche nella concessione del credito. Un elemento specifico per quanto riguarda l'Italia sicuramente è la riduzione drastica nei tempi di pagamento da parte degli enti locali, tempi di pagamento che si sono così dilatati da portare al collasso molte aziende. Il caso, i numerosi ormai casi di imprenditori che si sono tolti la vita perché disperati, perché non sapevano più come venire a capo di questa situazione, sono ormai troppi e bisogna intervenire subito. Qualcuno ha coniato la definizione che mentre una volta si moriva per debiti, ora si muore per crediti, e ciò è inaccettabile. Eppure, direttore, a questa crisi non siamo arrivati solo per responsabilità di speculatori cattivi nascosti dentro le banche per ordire trame contro l'economia internazionale, ma anche per colpa, diciamo, di singoli risparmiatori, come ricorda la Caritas in Veritate, sottolineando la responsabilità del singolo risparmiatore che magari per anni ha accettato dei prodotti a interessi assurdi, sapendo che magari questo prodotto non era, diciamo, pulito. Ma se io avessi 50.000 euro in banca, cosa potrei fare per investirli, farli legittimamente fruttare, ma allo stesso tempo agire nel campo della moralità? Questo è un tema di assoluto rilievo. È necessario che i cittadini si riapproprino dell'esercizio della responsabilità, a partire dal fatto che il potere che ognuno di noi, che ogni cittadino ha, è un potere molto rilevante. In economia si dice che tutta la ricchezza prodotta può essere tradotta in consumi e in risparmi. Tutte le azioni relative al consumo, tutte le azioni relative al risparmio sono azioni che stanno nella piena e legittima facoltà di ciascun cittadino. Per cui da questo deriva che le azioni di ciascun cittadino portano ad influenzare l'andamento dell'economia mondiale. Qualcuno dice che ognuno di noi vota con il portafoglio, perché acquistare un prodotto, acquistare un altro, determina è un elemento di potere rilevante. Così nell'ambito della finanza, del mondo bancario, scegliere un prodotto o sceglierne un altro avere un grande potere nelle proprie mani. Allora, cosa fare? La prima cosa da fare sicuramente è un'alfabetizzazione e la crescita degli elementi base dell'educazione finanziaria. Non farsi prendere dall'ingordigia, tenere presente che la prima regola è che a maggior rendimento corrisponde sicuramente un rischio maggiore. Un consiglio molto pratico è che il cittadino risparmiatore, nel momento in cui si reca in qualsiasi banca per fare un investimento, chieda: ma dei miei soldi cosa ne farete? Questi miei soldi dove andranno a finire? Chiaramente dando preferenza ad investimenti, alla collocazione del proprio risparmio in investimenti che anche sotto il profilo sociale abbiano una propria valenza. Il nome della banca che lei dirige è Banca Etica. Fermo restando che tutte le banche dovrebbero in qualche modo essere etiche, la sua banca come si pone a questi riguardi? Cosa fa per sia responsabilizzare il risparmiatore, ma anche perché questi soldi, diciamo, vadano a buon fine e vengano investiti nell'economia reale più che nell'economia fittizia? Allora, Banca Etica ha fatto della trasparenza uno degli elementi fondanti della propria attività. Banca Etica non ha mai avuto rapporti al portatore, qualsiasi rapporto può essere legato o collegato ad una persona fisica o ad una persona giuridica. Non abbiamo mai investito in derivati e in attività speculative. Abbiamo dichiarato che non avremmo accettato risorse provenienti da operazioni quali lo scudo fiscale, e mettiamo a disposizione di chiunque tramite il sito della banca l'elenco dei nomi delle attività che vengono finanziate, in modo tale il risparmiatore che versi il proprio risparmio, i propri soldi in Banca Etica, ha la possibilità in ciascun momento di sapere come Banca Etica utilizza quei soldi. Siamo l'unica banca al mondo ad attuare questo tipo di iniziativa e riteniamo che sia sicuramente importante, talmente importante che riteniamo sia tra gli elementi che hanno portato allo sviluppo importante della banca. Banca Etica nel 2011 è cresciuta del 24% nell'attività di concessione del credito ed è cresciuta dell'11% nell'attività di raccolta, nell'attività di raccolta di risparmio dai cittadini. L'altro elemento che svolgiamo va, appunto, come si diceva nella domanda, nel senso di educare le persone ad un utilizzo responsabile delle risorse e in modo particolare delle risorse finanziarie. Banca Etica è costituita da 36.000 soci che sono raggruppati in 70 gruppi locali. Attraverso questi gruppi, quotidianamente in qualche parte dell'Italia vengono fatti incontri, convegni, iniziative che sono finalizzate a far crescere la conoscenza dei meccanismi finanziari e in modo particolare la conoscenza degli strumenti della finanza etica, della finanza responsabile. Grazie del tempo che ci ha concesso. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Per approfondire vi invitiamo a visitare il sito di Banca Etica www.bancaetica.it. Ricordiamo l'appuntamento di questo sabato 25 febbraio dalle 15.30 alle 18 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario a Padova. Ci sarà un incontro dal titolo Per una nuova economia civile tra finanza, politica e società con Stefano Zamagni e Lorenzo Biagi. Domenica 4 marzo invece a Villa Immacolata a Torreglia di mattina Ci sarà l'incontro di spiritualità per persone impegnate nel sociale con padre Stefano Bittasi. È tutto, carissimi ascoltatori. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, oppure potete mandarci un'email per critiche, suggerimenti o consigli a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto e buona serata. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.